Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Il tappeto volante, ovvero la cura del perfezionismo. Alcuni giorni fa dal mio profilo Instagram ho fatto una domanda. Ho chiesto: che relazione hai col tuo tappetino? Le risposte si sono divise in questo modo: lo so che i numeri sono noiosi, ma seguimi per capire dove voglio arrivare. 60% una relazione di amore profondo. 10% è complicato. 10% un fastidio necessario. 20% srotolarlo e mantenerlo a terra è una sfida zenna. La foto di intro fornisce un'agile infografica di quello che pensa Cali del tappettino, nello specifico del mio. Il bravo praticante di yoga si riconosce dall'altrettanto bravo tappettino arrotolato sotto il braccio o appeso alla spalla in quelle agili buste che si trovano in qualunque negozio di attrezzatura sportiva. Da diversi anni invece io non uso tappettini, e no, non solo perché tanto i miei ne userebbe Cali. Se lo spazio in cui mi trovo a insegnare è il pavimento di legno, ad esempio, preferisco stare a terra, con l'unica intermediazione, e solo in alcuni momenti, di una coperta ripiegata per salvaguardare la felicità delle ginocchia, che è importante come sappiamo benissimo. Perché? Beh, trovo che simbolicamente il tappettino ci porti a fare la stessa cosa che facevamo da bambini, cioè colorare dentro ai bordi. Per alcuni il tappettino è uno spazio sicuro, è dire a se stessi: sto nel mio confine, qui comando io, è sicuro. Sentirsi al sicuro è molto importante. Dopo un po', lo spazio racchiuso da quel confine potrebbe diventare piccolo, scomodo, non ti ci puoi muovere bene. Il tappettino è anche il modo in cui dici a te stesso, questo è il mio spazio di concentrazione. Se davvero il tappettino ti fa sentire sempre bene, ok, benissimo. Cosa succede se per qualche motivo non l'hai a disposizione? Cosa accade se per una volta non ci sono bordi predeterminati all'interno dei quali colorare? Dal punto di vista biomeccanico non sono dell'opinione che i tappettini performanti, antiscivolo, antisudore ti facciano davvero bene, perché modificano la tua relazione con gli appoggi a terra. Ti costringono in un equilibrio. E se ti autorizzassi a perderlo, l'equilibrio? L'equilibrio, per come ce lo immaginiamo noi, è un'idea, è astratto, è innaturale, e tu non sei un'idea, non entri nella geometria piana, ortogonale di un tappettino a presa rapida. Tu sei spiraleggiante, pulsante. Sei connessa, connesso alla terra, al cielo. Non sei statica, statico. E quindi l'equilibrio statico, per te, è un'illusione irrealizzabile. Abbiamo imparato a colorare dentro i bordi così bene che siamo perfezionisti. Le sbavature diventano un giudizio. Non sono bravo o brava abbastanza. E stare dentro un confine piccolo, geometrico, in parte non funzionale a un movimento di ampio respiro ci pare ottimale. Lì dentro è tutto sotto controllo. Se ti autorizzi a non stare per forza dentro i bordi, la qualità del movimento cambia, lo spazio aumenta, la vibrazione interna diventa più gioiosa, lucente. Se ti autorizzi a non forzarti in un equilibrio impossibile, dammi retta, ti diverti di più. Quello che possiamo fare è togliere i tappetini che non ci servono e tenere solo quelli davvero necessari. Come si fa a distinguere? Facciamolo insieme. Lampi di genio alla scoperta di nuove idee è il percorso Yoga e Mitologia Online che inizia martedì 7 novembre. È tutto dedicato alle storie dei tricksters, i furbacchioni divini, quelli che ci aiutano a smontare il nostro perfezionismo, che mettono in circolo le energie che stanno fuori dai bordi, quelli che potrebbero non piacerci. Perché hai voglia se quando i piani attentamente perfezionati fino al minimo dettaglio vengono scompigliati ci infastidisce? Eppure è proprio lì che arriva il lampo di genio. Ecco gli incontri in diretta i martedì di novembre e con le registrazioni a disposizione per una settimana. 7 novembre non è la pantera rosa, la vitalità e l'energia. 14 novembre non è Bugs Bunny, l'arguzia e l'ironia. 21 novembre, non è Bart Simpson. Le priorità. 28 novembre, non è Aladino. L'altruismo e la generosità. Se ti iscrivi a tutti e tre i percorsi di yoga e mitologia online dell'anno, che sono novembre lampi di genio alla scoperta di nuove idee, febbraio in principio le infinite possibilità di ciò che inizia, aprile il cuore del cielo, ritrovare l'intuizione. Per un totale di 12 incontri ne pagherai 10 perché due incontri te li regalo per onorare la tua curiosità e la tua costanza. Inoltre, se partecipi in diretta a tutti e 12 gli incontri, avrai un attestato di partecipazione. Ovviamente, puoi venire anche a un solo incontro o a un solo percorso, ma se il perfezionismo rende la vita difficile anche a te, scrivimi subito perché iniziamo martedì prossimo, il 7 novembre. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Silvia S., coraggiosa esploratrice di se stessa. Non sono pubblicate da nessuna parte perché appartengono a una email che mi ha scritto dopo una lezione individuale. Per la generosità di autorizzarmi a condividerle anche con te, ringrazio ancora Silvia con tutto il cuore. Abbi cura di te, nessuno può farlo se non tu. Abbi cura dei tuoi passi, dei tuoi respiri, delle tue carezze, delle tue intenzioni. Abbi cura del cammino dei tuoi passi, del ritmo del tuo respiro, dello spazio della pelle in cui la mano si posa. Abbi cura dello spazio in cui nasce quell'intenzione, perché solamente tu conosci realmente quei luoghi. Un grande abbraccio, colmo di cura, Laura.